Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che poco a poco va a incontrare molti dei personaggi importanti che hanno collaborato alla redazione del Pioniere, il giornalino a fumetti con il direttore Gianni Rodari e Dina Rinaldi. Oggi, sempre con l'intervista di Morena Moretti, incontriamo un importante illustratore, in particolare un divulgatore scientifico, applicava i suoi disegni alla scienza, ai racconti di storia naturale, storia minerale, astronautica, un personaggio, Amedeo Gigli, che ha lavorato col diavolo e con l'acqua santa, col diavolo di Rodari e con l'acqua santa anche col corrierino del mondo cattolico. Sentiremo dalle sue parole l'importanza di certe esperienze e capiremo anche la statura di certi personaggi che in qualche modo hanno contrassegnato nell'editoria una rinascita culturale dal dopoguerra in avanti. Amedeo Gigli, illustratore, ha lavorato per diversi anni con il Pioniere intorno agli anni 50. Amedeo, che cosa ricordi di quell'esperienza e come arrivasti al Pioniere? Ecco, il problema è proprio questo, che dal punto di vista della memoria non mi ricordo esattamente quando e come, ovviamente anni 50, ma come sono arrivato al Pioniere. In quel periodo lavoravo già, diciamo, per Famiglia Cristiana per quanto riguarda i periodici, illustrando i fatti del giorno, un po' come la pastorella che salva la capretta che è caduta nel torrente, cosette di questo tipo. E probabilmente in quel periodo conobbi Marcello Argilli, che poi ho tenuto sempre da conto e ho avuto rapporti per tutta la vita con lui, e che probabilmente lui mi presentò, mi portò al Pioniere. A quei tempi il direttore era Gianni Rodari, col quale non ho mai avuto rapporto proprio diretto, nel senso che io come illustratore dovessi fare qualcosa per lui. Lo conoscevo perché alle riunioni lui era il direttore, ma il rapporto diretto, il riferimento immediato fra me e il Pioniere era Marcello Argilli. E soprattutto quando Dino Platone propose al Pioniere una storia della scienza, della tecnologia, scrivendo lui i testi e coinvolgendo me come illustratore. E questa è stata, diciamo, una esperienza molto importante per quanto mi riguarda, anche per sviluppi futuri, perché grazie a Dino Platone, grazie a quell'esperienza, ho avuto modo proprio di innamorarmi, direi, della divulgazione scientifica, alla quale poi mi sono dedicato praticamente in tutta la mia vita professionale. Dino Platone scriveva i testi. Ovviamente dal suo punto di vista era necessario esprimere i concetti fino in fondo, per cui testi molto lunghi, io direi, lo spazio per le illustrazioni era molto limitato, sia dal punto di vista dello spazio fisico, sia dal punto di vista scenografico, si potrebbe dire, erano in bianco e nero, a inchiostro, molto piccolo, eccetera, però è stata per me una università, direi, perché è in quel periodo in cui mi sono occupato di documentarmi il più possibile con libri ad hoc, non so, per esempio L'uomo fa il mondo di Forbes, della Burr, oppure i 5 volumi della Buriglieri sulla storia della tecnologia, eccetera, eccetera. Verso gli anni 70, 64, più o meno 63-64, avendo finito questa terminata, questa storia di Dino Platone, terminò un pochino, anche ci furono, iniziò una certa crisi nel settore della grafica, eccetera, e me ne andai a Milano. Ecco, torniamo un attimo solo a Roma in questo senso. Quindi è stato per lei, era agli inizi quando cominciò a illustrare questa storia dell'uomo sul pioniere. E quindi è stato per lei, era molto giovane, quindi è stato per lei un'esperienza che poi le è servita anche per il futuro. Certo, certo, un futuro veramente per molti versi sempre collegato al pioniere, perché io il pioniere l'ho seguito da quando era il pioniere, poi è diventato pioniere dell'unità e poi pioniere di noi donne, per cui con la Dina Rinaldi, eccetera. La direttrice, purtroppo non mi ricordo il nome, era moglie di un deputato. Non so, donne dell'epoca non lo so. Lei ha avuto rapporti anche con Dina Rinaldi, quindi? Sì, sì, con Dina Rinaldi senz'altro, perché era il deus ex machina del tutto, era diciamo il motore della situazione. Poi era una persona splendida, proprio soprattutto per la sua sensibilità, la sua cultura e il rapporto che aveva con i collaboratori, per cui ci sentivamo veramente a nostro agio, sia gli scrittori sia gli illustratori, dei quali poi io ero il principale, probabilmente, non me ne ricordo altri. E però terminò tutto, passammo sempre grazie al collegamento con Marcello Argilli a Paese Sera. Questo siamo nel 64-65 forse, che faceva una pagina, la pagina, diciamo la quarta di copertina per capirci, l'ultima pagina dedicata alla divulgazione scientifica, e lì cominciai a fare altre cose un pochino più grandi dal punto di vista, più impegnative dal punto di vista grafico, però anche quel lavoro terminò, io me ne andai a Milano a stabilire rapporti di lavoro con tutti gli altri editori che purtroppo stanno solo a Milano, a Roma non c'è una grande. Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno aveva usare gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocan sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore, che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano. guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare. Non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore. E dal chimico di Fabrizio De André, tanto per rimanere in ambito di scienza e divulgazione della scienza, torniamo invece all'intervista di Morena Moretti, registrata per la nostra trasmissione con Amedeo Gigli. L'abbiamo lasciata a Milano dopo l'esperienza del Pioniere e anche del Paese Sera. Vediamo allora come si sviluppa la sua notevole e importante carriera. Lei, proprio per questa sua passione per la divulgazione scientifica e anche per l'esperienza, ha continuato appunto le sue illustrazioni legate, no, a questi grandi temi dell'evoluzione dell'uomo, lo spazio. Esatto, mi sono soprattutto documentato acquistando dei libri seri come L'uomo fa il mondo di Forbes e della Burr, i 5 volumi della Borriglieri sulla storia della tecnologia di autori inglesi, molto illustrati, cose veramente di altissimo livello. Per cui quando ho arrivato a Milano ho preso contatto con Eurostudio, che era anche un rappresentante per gli illustratori, per l'estero. Ma lui viste le mie cose, perché come prima cosa fece un paginone proprio, mi pare, sulle strade romane, come gli antichi romani costruivano le strade a colori, come avrei voluto che venisse stampato dopo l'esperienza del Pioniere. Lui mi presentò al Corriere dei Piccoli. Il Corriere dei Piccoli, insomma, aveva ben altre possibilità dal punto di vista economico, e anche di spazio, perché mi affidarono dei paginoni settimanali che durarono un anno più o meno, nei quali potei un pochino sfogarmi sia con testi che illustrazioni. Nel mio sito di Facebook ci dovrebbe essere una pagina proprio dedicata a quella serie fatta per la Rizzoli, per il Corriere dei Piccoli. Ma quello che è molto più importante di quel periodo è che Dami, essendo collegato con le case editrici a Londra, inglesi, la Fleetway House, e propose a loro questa mia storia. Era una cosa nuova dal punto di vista editoriale, e sempre grazie all'esperienza fatta con Platone, con il Pioniere, eccetera, lavorai per ben 3 anni per gli inglesi, facendo di nuovo questa storia molto molto più enciclopedica, molto più ricca e soprattutto molto più illustrata. Ecco, questo per quanto riguarda la situazione fino alla fine degli anni 60, perché io nel 69 tornai a Roma e venni contattato telefonicamente da Il Giornalino della editoriale San Paolo, in quanto loro avevano conosciuto queste mie pagine di divulgazione scientifica e volevano, e anzi mi hanno proposto, e ho iniziato con loro una collaborazione settimanale proprio di pagine sempre identiche come contenuti a quelle primissime che facevo per il Pioniere, ma ovviamente aggiornate sia dal punto di vista tecnico sia con una maggiore capacità grafica. Grandi fumetti. Mafalda. E come denunciato dalla nostra sigletta, siamo a parlare di Mafalda e il suo creatore, Kino. Argentino di Mendoza, approdato a Milano, esule da ovunque, salvo che da se stesso. Migliaia di volte Mafalda, piccolina così, che ragiona come Cartesio e sente come Schopenhauer, e tanti omini che invece continuano a non pensare. Mafalda quando è nata esattamente? Esattamente è nata nel 63, ma poi ha visto la luce, diciamo, nel 65. Cioè è stata pubblicata nel... Ed è stato quello a darti grande notorietà, no? Sì, purtroppo sembra che la gente ha bisogno di un personaggio così, diciamo, fisso per... Cominciamo dall'inizio. Quando hai cominciato a disegnare, immagino in Argentina, no? Che cos'è che ti ha spinto a disegnare? Mi ha spinto a disegnare il fatto di avere un tio, uno zio, beh... Tio spagnolo. Sì. Ogni tanto mi scappa una parola in spagnolo. Sì, ma uno zio disegnatore pubblicitario, io avevo 3 anni quando l'ho visto disegnare per la prima volta e sono rimasto colpitissimo di questo fatto di avere una matita in mano e vedere cosa veniva fuori così. Lui ti ha fatto disegnare anche? Sì, perché poi... è venuto da noi a abitare a casa, allora... Dove da voi? Dove eravate? Abitavamo in una provincia in Argentina che è vicina al confine col Cile, che si chiama Mendoza. Poi da ragazzo, diciamo a 14 anni così, ormai era sicuro che il mio mestiere era fare il disegnatore di fumetti. Non sapevo ancora se di fumetti, diciamo, di quelli chiamati sul serio o umoristici. Comunque non sono d'accordo con te che io sia uno dei più bravi disegnatori. Sei certamente uno dei più bravi, questo lo devi riconoscere. No, le mie idee mi piacciono, ma il mio segno non mi piace per niente. Cos'è che lascia a desiderare nel tuo segno? È la mancanza di libertà per disegnare. Non ho un segno così libero, devo fare tutto prima matita, un lavoro... Però hai cominciato presto, quanto mi dici, hai cominciato presto, cioè sì. Ormai dovrebbe essere una tecnica assimilata. Ecco, appunto, dovrebbe, invece non lo è. Non lo è. Fatichi molto prima di arrivare al disegno che ti piace? Sì, ma prima ancora fatico tantissimo per trovare una idea. che... Lei crede che in generale nel mondo i vignettisti siano sufficientemente riconosciuti? Io credo di sì, credo che a partire da Umberto Eco, che inventò una specie di letteratura disegnata, la cosa sia molto migliorata per noi. La cosa migliora molto per noi. In che direzione andiamo con le nuove tecnologie? Stiamo vivendo una transizione tecnologica, nessuno di noi sa come andrà a finire. E come con l'ebook, quando tutti avevano paura che avrebbe spazzato via il libro cartaceo, alla fine non è andata così. Quindi non è facile predire il futuro. Nelle sue vignette oggi ci sarebbero gli iPad, i tablet o Twitter? Al principio di questa nuova era empecé a fare alcune cose tomandole il pelo a tutta questa tecnologia. All'inizio di questa nuova epoca avevo iniziato a fare alcune cose prendendo in giro tutta questa tecnologia, usando certi termini, quasi tutti in inglese, che la gente usa quasi senza sapere cosa vuole dire. Però, bueno, io credo che la tecnologia. Credo che la tecnologia cambierà le relazioni umane, già le ha cambiate abbastanza, ma con uno svantaggio curioso. La gente è collegata a migliaia di persone, ma non ha amici con cui parlare. È molto curioso. Parliamo un pochino di Mafalda. Parliamo un po' di Mafalda, che è uno dei motivi che l'hanno condotta fino a qui. C'è una esposizione che da mesi sta girando in tutto il mondo. Le sue strisce, i suoi pensieri, sì, che hanno un significato importante. Lei si immaginava tutto questo quando iniziò a disegnarla? No, non mi attendevo nulla. Iniziai a pubblicare questo personaggio senza avere un'idea molto precisa del personaggio. Non lo lavorai abbastanza prima di pubblicarlo. Poi mi sono chiesto come doveva essere un personaggio a cui avrei dovuto dare continuità. E ho pensato che avrebbe dovuto porre domande ai suoi genitori. Domande a cui nessuno sa dare una risposta, come perché ci sono le guerre, la gente povera, perché si distrugge il pianeta, domande a cui nessuno sa rispondere. È stato un buon modo per far interessare la gente al personaggio. Perché il tempo non passa per Mafalda? Non le sono venute le rughe e ha attraversato il tempo diventando quasi eterna? Io credo che il giorno in cui giustamente i lettori si renderanno conto che nei miei disegni non c'è tecnologia, per me piuttosto sconosciuta, allora diranno che questo personaggio non è della nostra epoca e perderanno interesse. Ma al di là dell'interesse per Mafalda, la sensazione è che resti molto attuale. Dà l'impressione che il mondo sia cambiato molto poco in questi 50 anni. Pochissimo ed è piuttosto deludente per il comportamento umano, perché questo significa che continuiamo a fare gli stessi errori e non miglioriamo in niente se non nella tecnologia. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a sinistra, il pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà?